era il 250, va sui 110 watt, mi ricordo. Ed era modificato pure, se no non l'avrebbe neanche dato. Lo tengo a metà, no? Il carico lo tengo a metà, lo porto a 100 volte. cazzo, fino a 100 metri, cazzo, 200 watt, una bella. Gli allisco. E figurati, 6-700. Allora, prima potenza lo tengo, ma non è una cosa grande, ma una soletta. Vabbè, signore, io vado a riposarmi un po', se coincide ci sentiamo per sera. Ciao Mario, Antonino, Luca, chiunque fosse l'ascolto, vai, a per sera, cambio, passo. Vabbè, ma compri, non vendi? No, cambio, passo, non compro più niente, non vendo più niente. Ciao, ciao, alla prossima, là. Ciao, ciao, 244, niente, a tutta la prossima. Ciao, ciao. Ciao, piccolo. Piccolo, ci sentiamo stasera, che mi riposo un paio d'ore. E poi ci sentiamo alla radio. Bye bye. Ciao, ciao, tutti. Tanto tempo fa, mi manco più facendo collegamenti io. Però se non è per fare collegamenti. che mi posso adesso. Ma con la 27 non è tanto facile, no? Il 27, io sono il fratello di posso dirmi. La Spagna, come mangio con le gatti? Oh! Il 27 io li ho collegati con le cose lì. L'Argentina ho collegato, tutto Madrid, da voi l'Inghilterra ho collegato, il 27. Il 27. A me gli inglesi sono riuscito spesso e volentieri. Un po' quei francesi sento. Gli spagnoli arrivano Cilacca, arrivano un bel forte, quando arrivano gli spagnoli arrivano un bel forte, spagnoli, portoghesi arrivano un bel forte, e i francesi, lui qualche uno dalla Sicilia li ho sentito, poi niente, qualcuno da Roma, ma poca cosa, poi in estate, adesso no, adesso sono solo gli spagnoli. Beh, se non c'è la propagazione non ricevi niente, no Mario? Quando c'è la propagazione ricevi meglio a loro che a quelli di qua, perché l'onda si fa diversa e quindi ricevi più quelli di fuori che quelli di qua, capito? E quando c'è propagazione si fanno. Se uno ha un apparato con le bande laterali si fa a bestia. Tu da sei conosci quattro barali in inglese ti fa il collegamento. L'unica cosa è sapere l'inglese, guarda, se sei uno fa l'inglese, perché l'inglese lo parlano tutti. Si è agevolato se parli l'inglese, diciamo, anche se non parli altre lingue. Mario, vabbè, sarà così. E cari tu sa poi la palestra, la parla con la mano nel bicchiere. La radio ti stava ascoltando. Una marina e stai andando. Intanto con la barca ci sono le luci, c'è tutto. E beh, infatti. Cappa gappa. Adesso mi giro caffè e piano piano me lo gusto. Eppure faccio come Luca, e mi gusti tu. E la pasta asciutta, e mi gusti tu. E ma come che ti ha fatto? Manicomio, ricercato per questo nome che lo cercano, oh. A me è sembrato che c'era anche Antonio, è entrato poco fa a salutare, poco fa, perché non ho riconosciuto la voce, perché l'ho detto a voce bassa, piccolo, però penso che sia lui. Sì, sono arrivato a casa, Ma non so più. Guarda, perché me l'ha messo sul comodino, sono coricato, non mi sento bene, allora me l'ha messo sul comodino qua, ho le tende che oscurano tutto, no? E dopo pranzo mi scurico a farmi un pisolino, già non mi sento bene, quindi sono a letto per quello. Sai che sono messo, ma era giù. Dimmi. Ah, mi è giunta un'altra cosa, va. Meglio lasciare perdere, va. Gomba di dietro, che qui gombe? Tu che hai mangiato piccante? Qua, sono così caranotti, gatto, non so chi sta. Vabbè, ma se tu siete da me, io non la supporta. Ma non è un problema. Vabbè, un pippo, lavi una bruca. Io ero da brutale. Dillo a me, io scherzo. Lo sai che io scherzo. Però se ti fa piacere una supportina, no? Per un amico si fa quelle altre. Già lo so, Mario, già lo so. Ma purtroppo io sono allergico alle supporte, rapidamente per darle agli amici. Magari io sono andato a via di Giudone, visto di Giudone. Ora, non lo so, già, sempre lavorando stanno qua sullo scorrimento veloce, poi stanno facendo un'uscita di sotto di gigantesca, a quattro corsi. E quella di Santa Maria? Ehi, bella grande, spaziosa, così si può entrare di vento in frittare. Hanno fatto tutto, hanno struppiato anche un pezzo di officina al carrozzuolo con la piacciola. Se ne scappa, per forza, lì buttano giù tutto, la cosa deve uscire dritta, anche perché lì c'è quel tribunale minorile che fa anche la carcere minorile, non so se l'hai notato lì sulla destra, di fronte a quella costruzione che stanno facendo. Quando c'è mancata lo grosso? No, Giù, quando tu sei, esci da lì, che pigli la strada per andare verso Tisci, Usi, di così, no? Qualche arrendiato grande che c'è sulla destra, che poi ci sono anche quelle casette piccoline a fianco. Ma non è la nuova università quella? No, quello che c'è sulla destra andando, quello lì è il tribunale minorile, sotto ci sono le celle, c'è tutto, ci sarà il custode, e adesso stavano ultimando i lavori, perché i minorini non li possono portare, hanno detto lì a San Sebastiano, li dovrebbero portare direttamente a Cagliari, siccome per molti pensieri dice cosa non bisogna fare, dopo bisogna lo devi dover regalare. strappa, quando passano la gabbia la usano, la faccia la usano la ingarassabbia. Ma è stato di positivo, ma in caso di fermo adesso, quando sarà tutto quanto pronto, li porteranno direttamente lì. Se ce li conserviamo a strappa, se ce li conserviamo. Thank you. Esatto, esatto, no, io li ho visti anche da poco che sono venduti, infatti il falegname che vicino a noi ne ha comprato due, però lui in macchina ha il computer portatile, perché quando va a misurare per fare qualche cucina, qualche cosa, si fa direttamente il disegnino lì con il computer portatile e niente, e attacca il telefonino, va in internet, fa tutto con il cellulare. E c'ha il pre dell'LG. E a lui gliel'hanno dato il carretto per andare per attaccare al computer. Solamente che cosa faccio? Lo chiedevo a lui e mi diceva, e io cosa ho dato? Mi devo comparare. Capito? Mentre so che tu non lo usi perché il computer ce l'hai sia in ufficio che in casa e non c'hai bisogno di quel carretto lì. Però bisogna chiudere fuori e già si dà, si fa da uscire. comunque come dicevo, se dove via Valdesa c'era sui muri, una volta mio padre era andato a prenderla, me l'aveva fatto vedere anche, tipo un'erba, una pianta grassa rimane a cosa dentro, e lui la faceva bollire, dice che li faceva bene. Provarci, molte volte fanno bene queste cose. Io ho visto che la pomata non mi ha fatto niente oggi, Bobby. Allora mi si è allungarizzato un po' col dolore, ma stanotte, guarda, meglio la notte. Lo so, a me mi sono fatto il buon sangue, la voce, ha fatto il rosso. Sono andato anche al dottore, ma te non ti preoccupare, sono un po' di raga, di tu, non so cos'era, non fisto, che cos'era. Come si era in terra? Eia, snoffi, no, guarda, mamma mia. Questa roba di dolori. Crisi, che cosa amara. Lo so, non pensare mai così tutto. Ti fa una male. Tutto adesso mangiare in bianco, mi lascia la mangiare roba piccata, se non ti grippa. Infatti. Eia. Qua. Non potevo fare qua. Lo so. Un po' io non l'ho avuto, ma per poco tempo, grazie a Dio, perché tu la tua attiva, non ho messo manco la pomataia e mi sono passati su. E fa la preparazione H. Sì, forse è quella lì. Forse è quella proprio. Ma tante volte vengono con gli immi, anche se non mangi roba piccante, secondo come ti trova, magari anche la febbre, le cose che ti faccia male e via. Già. Ma se ci sono i sistemi a freddo, dice che tipo il ghiaccio, tipo la tipo laser, si cura benissimo, dai, non è più frio. Io devo andare a cercare queste erbe, adesso non so, si possono curare anche proprio totalmente, diciamo. Ma mio padre ha 93 anni, quindi sono delle cose tutte all'antica, capito? Questa era lui come c'è la erbe. Questa erba qua l'avevo insegnata quando era ragazzino, me l'ha fatta cercare a me, mi ha detto sì sì, è lì, prendimene un po' perché me la devo fare, e io ho fatto bene. Oh capo, no, che faccio bene a fare bene, ma in castigliano, è che bisogna sapere chi sono, che non devo fare, perché se sbaglio addio. Perché magari c'è più qualche erba che ti fa bruciare, invece che farti bene ti fa bruciare il cuore. Ci sentiamo stasera magari, già. Ciao Natali, curati bene, vieni, curati bene, ha ragione Gianni, non mangiare roba piccante, tutto in bianco e via. Ok, quindi ti per me, io sono già arrivato all'ispirazione, ci sentiamo stasera, ciao Natali. Ehi, dai, aspetti bene anch'io, ciao, sono arrivato, ciao Natali, ho già tirato amici che stanno ascoltando. Faccio pure di anch'io che mi riposo un po' e poi mi vado a lavorare, devo uscire. Ciao, ciao. Ciao a tutti, ciao Salvatore, ciao Gianni e che altri ci fossero in ascolto, anche io me ne faccio in corruzione alle frutte.